io non lo ascolto, mi dispiace veramente, guarda, perché Emanuele è una persona che io conosco da tantissimi anni, poi tra l'altro c'è un qualcosa che ci accomuna anche, vabbè, parlo di parentela eccetera, vabbè, pazienza, dai, comunque rimango così, che continuate pure voi, dai, io continuo qui a leggere, stavo leggendo qualcosa che mi appassiona un pochino. Riprende pure Carlo, dimmi se Emanuele mi ha sentito, per cui mi farebbe piacere se lui mi avesse sentito. Avanti Carlo, chiudo comunque da questo momento, cioè abbasso il volume e continuo a leggere. Riprende Carlo. Sì Giulio, ho provato a insomma mandargli io i tuoi saluti, però non mi ha risposto, molto probabilmente si è assentato, capito, momentaneamente. Se dopo rientra, fa chiamata, glielo riferisco anche più tardi. Anche io rimango in ascolto, allora Giulio, poi se c'è qualcuno che bussa già mi sentirete in radio. È sempre un piacere sentirti Giulio, buona serata, buon tutto, buona lettura soprattutto, dai, se stai leggendo. Ci sentiamo in altre occasioni, non ci sono problemi. Benissimo, io rimango in ascolto. Ciao, buonasera Giulio. Ciao, ciao Carlo, alle prossime, ciao. Ciao ancora Giulio, buona serata, alle prossime. Carlo, mi meraviglia che mi senti con cose stazione così alto. Io ti sento infatti basso e se no sento anche Giulio stranamente. Adesso vado a controllarmi il PL. Ciao a tutti, comunque buona serata. Sì, ciao Gianfranco, alle prossime, magari in condizioni migliori. Dai, sistemati il problema. Ciao, ciao, buona serata. Ciao di nuovo Gianfranco, alle prossime. Spero di risentirti presto, non dopo qualche anno come è successo oggi. Ciao Gianfranco, alle prossime. Ciao Giulio, ciao ciao. Chi c'è? Chi c'è? Ciucuccio, ciucuccio, ciucuccio, ciucuccio, ciucuccio, ciucuccio, ciucuccio, ciucuccio, ciucuccio, ciucuccio, ciucuccio, ciucuccio. Zero. E avevo premuto, poi ho visto un segnale discretamente forte, a dirla minimizzando. Sì, sì, ero io in ascolto. Come ti sto arrivando? Adesso sto uscendo proprio con il minimo, tutto abbassato a sinistra. Allora, qui non varia, data la vicinanza. Adesso sto usando il 3009 Superstar, quindi Smitter a lancetta K. E stavo spazzolando un po' prima 10 vuoto, 12 vuoto, 23 vuoto, un bel 11. Sì, prima è entrato Giulio che ci ha salutato, e poi c'era Emanuele, Tino, c'era anche Natalino, e poi ha chiuso perché aveva da fare, è entrato anche Gianfranco che ero da un bel po' che non lo sentivo, però aveva poi un problema di stazionario in antenna e ha chiuso. Niente, io sono forse l'unico che è rimasto in ascolto, prima ho sentito una portante ma non mi hanno risposto, e quindi adesso ho sentito lo stesso anch'io, ho visto il segnale forte, ho detto chi è. Guarda, è Roberto, per arrivare così fatto, Roberto sono io, siamo abbastanza vicini, per quanto Roberto sia discretamente più distante, dai, più o meno lo sai dov'è, no? E comunque sì, è sempre vicino. Top. Io sto aspettando una chiamata per vedere se devo andare a fare una commissione, ma qua non chiama nessuno, si fa tardi, perché poi all'ora di cena non mi va di uscire, che magari devo cucinare per la notte, per mamma, eccetera. Ok, quindi c'è Natalino anche, così è quel cuocomane, vediamo se ha l'ascolto quel cuocomane. Mi sa di no. Eh no, perché ha chiuso e aveva qualcosa da fare. Sì, sì, no, Gianfranco già lo so dove la sua stazione, ci sono anche andato. In effetti chi mi arriva forte qua sei tu e Gianfranco. Capito, i segnali forti sono quelli. Chi mi arriva forte è anche Gianni Doppio Room, anche se è più in giù, però anche lui arriva sempre a fondo scala qua da me. Claudio quando entra, che è sopra di me, capito, è tutta gente che arriva a fondo scala qua. Cappa, lei una volta, non so se l'avevi sentito tu quando era ancora a Carbonazzi, ma c'era una differenza notevole. Lui tipo da Liscio arrivava a 9:20, non meno di 9:20, anche 9:25, e adesso che è più distante dal centro abitato arriva 9:09 a questo smitter. È una differenza notevole, si sente che è molto più distante, forse anche un po' proprio non vede la, fisicamente non vede la città, capito? Non so che, appunto, la zona come sia, ma prima era abissale la differenza, poi si attaccava, non ne parliamo. Io oggi sono con 4 watt, telefono, va, ecco, bianco per me. Buonasera a tutti! Sì, Marco, vai tranquillo. Ciao Gianni, buonasera. E allora, mi sto provando il voice. Vediamo un po' se va bene. Dai, sta andando bene, sì, perché era un po' di tempo che non l'ho attaccato. La radio è un po' graffiante, la radio, capito? Il segnale è sempre quello già da me. Però forse il microfono è differente. Boh. Allora, aspetta che controllo. C'era il calibro, adesso scendo verso. Adesso ha cambiato, sì, adesso ha cambiato. Sì, va meglio già. C'era la calibrazione, l'avevo spostato quando era in mano laterale e probabilmente risultava un po' fuori, capito? Può essere. Prova a abbassare amplificato anche questo. Rieccomi, signori, devo chiudere e uscire adesso. E vestire naturalmente. Ci sentiamo Carlo, ci sentiamo Gianni, dai, quello è più urgente, ciao. Ciao Marco, ci sentiamo alle prossime. Ciao Marco, ciao. Adesso ho abbassato, guarda, va meglio. Oh, adesso ci sei, lascialo così. Era troppo forte prima, però così va meglio. Cappa. Adesso era un po' di tempo che non lo usavo, lo volevo lasciare un po' acceso. Mi stavo andando a farmi la luce, mi ha chiamato un amico e ho mollato, sono rimasto in disabili. vai pure, io lo stesso sono a casa, sto aspettando anche una telefonata, per cui se non ne ascolto, ma se devi andare a farti la docetta vai, nel caso ci sentiamo dopo, fai chiamata, già sono in ascolto io. Un altro po' mi trattengo, vediamo un po' se c'è Marino, ci sei? Comunque questo è lui, scappa. Va bene così, lascialo così Gianni. Prima era troppo forte forse l'amplificazione, però come l'hai abbassato un po' va decisamente meglio. Anche questo ha i suoi anni, questo apparecchio. Molto bello, lui si avvecchia tantissimo. Lo credo, lo conosco come apparecchio. Già l'ho visto anche dal vivo. Sì, sì, bella radio, non c'è dubbio. E niente, io ho lavorato stamattina un turno balordo dalle 8 del mattino sino alle 16. Sono rientrato, ancora non mi sono cambiato, tra una cosa e l'altra, poi mi sono messo così un po' alla radio, sono buona una mezz'oretta qua. Prima c'era Natalino, è entrato anche Giulio un attimo a salutarci, c'era Manuele, Tino e poi sono tutti andati a fare altre cose. È entrato anche Gianfranco, da un bel po' che non lo sentivo. E poi ero in ascolto e ho visto adesso la tua portante. Prima ho risposto a Marco che è entrato. telefonato, ma mi aveva già detto che era in attesa di una chiamata, evidentemente poi l'hanno chiamato ed è dovuto uscire. E mi sa che siamo solo noi due. Vabbè, siamo rimasti gli unici, là. Ci convinti che mi sdraio. Già sono qua, tranquillo. Vieni a Carlo, va. Mi sdraio 5 minuti, poi mi faccio la doccetta e poi vado giù a portare il cane, là. Non ne avevo voglia di... Poco fa non ne avevo voglia, perché stamattina mi sono fatto tutto il lavoro a casa, pulito tutto e splendente. Vabbè, anche quella è una bella soddisfazione, dai, quando finisci, magari sarai stanco, però insomma ci vuole ogni tanto. Non ti preoccupare Gianni, se hai da fare anche altro, io già sono in ascolto, oggi magari mi trattengo un po' alla radio, tanto sono qua in cucina che faccio qualcosa, adesso mi accendo il computer e mi devo finire una cosina e niente, poi se tu devi andare, se ti va poi più tardi, quando finisci di portare il cane, già troverai qualcuno sicuramente di sabato sera che fa un po' di radio. E intanto sono andato a farmi un po' di karaoke a casa di un amico e niente, mi sto tornando adesso, stavamo cantando sino adesso, abbiamo fatto quella canzone del volo troppo forte. E beh, se ti diletta e ti piace il canto, fai bene, quando uno fa qualcosa che insomma gli piace fare, è sempre la cosa migliore quella. Abbiamo tutti e due la stessa passione, ma chiamatemi e detto, io ci vieni, cosa stai facendo? Io a casa, e te non facciamo casino, no, non ti preoccupare, io vieni, che c'è un impianto allucinante, un impianto proprio da discoteca, cioè delle casse enormi. Ma non è in condominio, immagino? Sì, in condominio. Chicca, aspetta. Disturberà chi è sopra e sotto, immagino. E infatti gli ho detto, ma non disturbi. No, anche loro dice di venerdì, si mettono venerdì e sabato, fino a notte e tarda, sempre cantando, vabbè. Quindi cosa può fregare? Lo fanno anche quelli di sopra. Quindi io già, vabbè, c'è un'altra cosa, canto negli orari che posso cantare senza urlare troppo, volume non ne sentono nelle case perché io l'attacco al computer o al telefono e canto all'interno dell'app, capito? Sì, ho capito. Anche io ogni tanto già mi diletto con la musica, che ho una bella cassa con subwoofer, ce l'ho collegata anche alla televisione, per cui mi fa da soundbar, capito, se dovessi guardare un film eccetera, collego quella, senti tutti gli effetti speciali e insomma è pompa parecchio, solo che non la alzo mai troppo perché in condominio, ho capito, paura di disturbare, però ogni tanto mi metto la musica moderata. Ci sono mille applicazioni dove ti fanno selezionare che ne so, musica tipo musica da camera per esempio, musica classica oppure magari soul, e siccome a me piace qualsiasi tipo di musica, quindi ogni tanto mi seleziono qualcosa e mi sento mezz'ora, un'ora, magari sto col telefonino in salone seduto nel divano e mi ascolto la musica, anche se mi sposto in altre stanze, capito? Si sente uguale. Prima uscivo un po' nel corridoio la musica, poi da quando avevo cambiato il portone, avevo messo quello blindato, ho fatto delle prove, ho lasciato il volume alto, sono uscito fuori, ho chiuso la porta, non si sente niente, e quindi va bene così. E magari la si sente fuori, perché si sente tra un piano e l'altro. A me se io alzo qua, io vabbè, impianti ne ho diversi, c'ho lo stereo proprio quello che si usava prima, con il piatto tutto quanto, che va benissimo, funziona bene, è della Panasonic, è il piatto della Sony. E poi c'ho due casse karaoke, una da 1000 watt e l'altra da 2000, da 2000 watt, che è esagerata, se ne va presa la mia compagna e si è voluto prendere una cassa grande, se l'ha presa da 2000 watt, però non fa alzarla perché vibrano tutti i bicchieri della cristalliera, qualche giorno me li butta in terra e niente. Poi in cucina c'è un altro impianto, cioè quindi di musica, poi c'è anche il ricevitore, che quello me lo uso quando mi faccio la doccia, mi metto la musica e me la faccio a suon di musica. Esatto, sì. Poi la mia, ovviamente la cassa che ho io è di quelle Bluetooth, qui per, mi posso mettere anche la musica dal cellulare, eccetera. C'è anche il microfono Bluetooth e addirittura ti dà la possibilità di cambiare le voci, se vuoi mettere la voce fina fina oppure quella capito, ti fa un sacco di cose. È curioso, è della Creative, non so se conosci, la, è una marca specializzata in audio, schede audio, insomma cuffie, fanno un po' di tutto, e c'ha lo stabilimento in Olanda. Non mi sembra che l'ho sentita nominare quella casa lì. Sì, vabbè, anche io ce l'ho tutti col Bluetooth, cioè i microfoni sono senza fili, col Bluetooth, eccetera, eccetera. Solo che non fa, perché quando canti al microfono ti viene voglia di alzare. Poi mia figlia canta, era la cantante di TLG, quella che accompagnava le sfilate di moda, eccetera, eccetera. Cantava lì e sfilavano le modelle, dai. E niente, poi vabbè, TLG non c'è più adesso, sì, a Bologna, quindi un po' lasciato perdere, però non disdegna al canto, perché c'è stata, hanno fatto un'opera buona a un ragazzo che praticamente era bravissimo all'università, è morto il padre e quindi non poteva più continuare gli studi, e era un peccato, gli mancava poco, quindi cosa hanno fatto? I colleghi, quelli che suonavano, c'era chi suonava la batteria, chi suonava il basso, eccetera, lei cantava, hanno fatto un concerto chiedendo vabbè, qualcosa a chi partecipava, e hanno aiutato questo ragazzo, capito? Sì, sì, ho capito già. Va bene. Niente, oggi ho lavorato, te l'ho detto, orario balordo, dalle 8 del mattino sino alle 16. Ci hanno cambiato il tipo di turnazione, quando facciamo i servizi esterni facciamo 8-16, 16-24 e 24-08, però solo per i servizi esterni, no? Che sono la vigilanza, il pattugliamento e il servizio di varco doganale, capito? Il varco carraio doganale. Mentre invece gli altri servizi facciamo un'altra tipologia di orario. E invece prima avevamo tutto lo stesso orario, riuscivamo a coprire le 24 ore, andava meglio, perché quando entravi la notte facevi dalle 21 alle 5 del mattino e poi l'altro collega entrava dalle 5 del mattino sino alle 13 e così via, 13-21, e coprivi le... Poi hanno voluto cambiare le ore, il tipo di orario, e prima l'hanno voluto, adesso tutti si stanno lamentando. E ho detto, perché quando si sta bene, ho detto, poi la gente decide di stare male. Quindi siamo alle prese con questa vertenza anche sindacale, perché abbiamo coinvolto i sindacati per vedere se possiamo ritornare a quello precedente, perché abbiamo meno tempo anche da stare a casa così. Beh, certo. Insomma, le cose belle finiscono sempre. Cioè, anche a me, io prima facevo dalle 7 alle 2 o dalle 8 alle 3. E praticamente poi mi hanno messo la sera, mi hanno messo in pescheria e mi facevano fare il turno dalle 2 sino, dovrebbe essere alle 8 e mezza, poi si faceva alle 9 e mezza, alle 10, dipende, tra spegnere tutto, mettere a posto, ritirare il pane, pulire la pescheria, eccetera, eccetera, ci metteva, perché poi andavamo via tutti insieme, non è che uno andava via prima, quando uno non finiva andava l'altro, gli dava una mano, in pescheria mi arrangiavo sempre da solo, poi andavo a dare la mano agli altri, pulivo, lavavo dopo che ritiravo il pesce. E però quel turno lì a me mi andava molto male, ma molto. Lo so, va bene, comunque speriamo che ce li ricambino a noi, perché io così sto troppo... cioè orari che non mi vanno bene, dai. Era, forse mi ero abituato troppo all'altro e quindi adesso con l'estate speriamo che si decidano a rimettere tutto a posto. Dovremmo aspettare ancora un mesetto circa, così ci hanno detto i sindacati, e speriamo che ce la facciano, perché no, così non riusciamo più, se no. Perché tu ti sei organizzato per un certo tipo di orario, sai, sembra così, però te lo organizzi inconsciamente, ti organizzi le cose e poi ti sballano tutto quanto, capito? Ti sballano tutto quando cambiano l'orario. Infatti sono andato mille volte a protestare perché ho detto che non era giusto che io facessi sempre la sera, gli altri facevano il giro, facevano un po' la mattina e un po' la sera. E mi hanno detto: già, ma non c'è nessuno in pescheria, chi ci sta? Le donne non sanno, non conoscono il pesce, non sanno fare niente di queste cose, l'unico sei tu che puoi restare. E imparano, come ho imparato io imparano loro. Mi sembrava anche giusto, e invece ti lasciavano solo ed eri costretto a fare sempre quell'orario, immagino. Sì. Ultimamente ci avevo sempre quell'orario, vabbè, ma quello lì dipendeva tutto da un capo negozio che era un po' stronzo, perché se no poteva organizzare in una diversa maniera, capito? In una diversa maniera poteva organizzare. Fare andare, per dire, uno la mattina, uno la sera. Poi c'era un altro che sapeva lavorare in pescheria, che lavorava quando mancavo io, quindi poteva sostituirmi. E vabbè, eravamo in due in pescheria, poi quando mancavo io c'era un altro ragazzo che l'aveva fatto già il pescivedolo, quindi lo sapeva fare e si arrangiava lui. Quindi quello che lo sapeva fare poteva benissimo fare un giorno la mattina, un giorno la sera, ma siccome gli serviva la casa, gli serviva altre parti, che quello era tutto fare, capito? Lo so, quindi sfruttava solo una risorsa e l'altra la usava come voleva. Purtroppo è così, molte volte i padroni sono quelli che, insomma, che fanno tutto. Ma ci sono anche i lecchini, nei posti di lavoro ci sono anche i lecchini, uno quando è lecchino riesce a ottenere di più. Invece a me fare il lecchino non mi è mai piaciuto. Facevo il mio lavoro e poi me ne andavo, punto. Sì, stavo toccando la radio, no? Perché mi avevano detto che questa radio, dice, scaldava parecchio, soprattutto quando parli per lungo tempo, magari che sei solo in due, quindi passa poco da una, diciamo, trasmissione all'altra, eccetera. E invece, diciamo, rimane tiepidino ma tranquillo, più di quello non scalda. Ho provato anche a usarlo con, diciamo, più watt in uscita per vedere se è lo stesso, anche quando aumento i watt scalda sempre allo stesso modo, è meglio così. Però ho pronto anche eventualmente un sistema di raffreddamento, capito, da collegare sempre in serie all'alimentazione, e una ventola di computer 12 volt, l'attacco là e l'appunto verso le alette posteriori di raffreddamento, e dovrebbe funzionare, buttare l'aria calda fuori, capito? Io ce l'ho già pronta con l'interruttore e tutto, perché ce l'avevo sul lineare e poi l'ho tolta. Ce ne ho due, mi pare, già pronte con l'interruttore, avevo messo l'interruttore sopra e bloccato praticamente attorno, le ho fatto un giro di nastro isolante, l'ho bloccato così l'interruttore, quando volevo l'accendevo e girava, poi la spegnevo e si spegneva. E praticamente era molto pratica, perché potevo accenderla e spegnerla quando volevo io. Sì, anche la mia è così, però io ho messo di quegli interruttori a peretta, capito? Per cui me lo metto dove voglio io, e lei l'attacco col biadesivo e l'appunto dove voglio, perché l'ho montata su un... Ce l'hai presente quei supporti delle casse per radio CB? Avevo una vecchia casa che non funzionava di radio, no? Quindi ho tolto lei piano, ho messo delle vitine e il supporto, diciamo la ventola, l'ho attaccata così addirittura flat, e quindi l'attacco fissa col biadesivo e poi la posso direzionare dove voglio, capito? E a questa, e cioè gli ho fatto l'attacco, diciamo l'uscita dei fili per l'alimentazione, e poi gli ho messo l'interruttore, però di quelli quelli a perettina, capito? Tipo a bajur, funziona perfettamente. No, io l'interruttore non li ho messo quelli tipo degli alimentatori, uguale a quello. Ne avevo alcuni, senza comprare, senza nulla, ne avevo alcuni. Ne ho preso uno e l'ho messo. Ho visto che funzionava e ho lasciato quello lì. Poi ho tutto quanto attorno, gli ho messo tutto il nastro adesivo di quello buono, e ho visto che ha durato un bel po' e ancora è così, quindi niente, e vabbè, che vuoi che ti dica, già uno si deve anche arrangiare, e quando scaldano gli apparecchi bisogna raffreddarli in qualche maniera, perché sennò poi così, i finali si bruciano. Sì, sì, sì, no, ma per adesso lascio tutto così, visto che non sta scaldando, capito, lo lascio così, stavo abbassando l'altra radio che è partita in trasmissione, quindi ecco qua, no, lascio tutto così per adesso, se poi vedo che d'estate magari scalda ulteriormente, allora sì, mi organizzo la ventola che ce l'ho già pronta come le tue, piazzo là e l'aria calda, diciamo, già la butta fuori dal mobiletto. Per quanto riguarda l'antenna della macchina, io lo sai che non ti sentivo l'altro giorno quando ti sei arrivato quasi all'aeroporto, lì non ti sentivo più, non ti sentivo più, invece con l'altra antenna ti sentivo, lo sai, caro. Eh sì, sì, sì, perché quella, diciamo, la Midland S9 c'ha lo stilo lungo e quella rende di più, invece la frusta va bene in città, già ricevo dappertutto, però come ti allontani dopo 20 km già inizi a perdere qualcosa, perché l'impianto è sempre quello, capito? Ho cambiato solo l'antenna, diciamo che la frusta è utile perché è un po' più bassa e quindi ti passa anche in certi negozi, in certi parcheggi, riesci a passare anche senza toglierla, invece quella frusta la devi proprio abbassare o togliere, capito? Però a questo punto conviene più la base magnetica con l'antenna alta e rende meglio. Quella mia non te la prendi più, quella come la mia. Se immagino, cioè, se mi dovesse creare questa che ho, perché non mi voglio riempire di antenne, adesso ho praticamente due fruste, solo che una la devo dare, capito, ho due fruste e poi la S9, quella Midland, che quella è bella perché copre praticamente dai 25 sino ai 30 MHz, capito? Quindi la puoi usare per dire se dovessi mettere l'altra radio in macchina, perché se riesco a sistemarmi quella che ho riparato me la metto in macchina dentro il cassettino, se riesco, però devo avere il tempo di portarla giù, insomma, e vedere se ci sta, se riesco a chiudere il cassetto, eccetera, perché è un po' lunghetta con le alette di raffreddamento, non vorrei che toccasse in fondo, però voglio prima provare se ci sta, o altrimenti gli devo trovare un'altra sistemazione. La mia non chiudeva perché toccava il piede, allora ho dovuto bucare il cassetto, le ho fatto un buco, le ho fatto passare il piede nel buco e così c'è stato, e ci stava quello e anche il lineare a fianco, quindi andava benissimo. Io c'avevo il Midland, quello di quelli modificati con diciamo come li usano i camionisti, dai, bip secco, ecco, eccetera eccetera, ci va fortissimo. Tu pensa che io da Porto Torre, se parlavo con Alghero, c'erano stazioni fisse da Porto Torre, se non riuscivano a parlarci. Sì, se ti fai l'impianto così lo credo, io è quello che vorrei fare, però la cosa migliore è utilizzare la base magnetica, secondo me, perché stavo pensando di mettere la basetta fissa, togliere l'antenna della radio e utilizzare il foro, capito, per mettere, però poi sulla basetta fissa sei costretto sempre ad abbassarla l'antenna lunga. lunga, capito? E quindi a quel punto fai prima con la base magnetica. Io ce l'avevo fissa, ce l'avevo la Turbo 2001 fissa al centro cappotto, immaginati. E se non me ne ricordavo, sentivo bang. Una volta sono andato nel peso di Multinetto, nel garage Multinetto, quello che c'è via Grassi lì. Sentito tra. Mi sono fermato, l'ho abbassata, l'ho tolta e poi sono ripartito. E che diamine, intanto non si rompono, sono antenne molto furti, capito? Si può rompere la capotina della macchina, ma diciamo che la macchina che avevo io c'aveva la capota bella grossa e in più c'aveva la barra di torsione, io l'avevo attaccata tra la barra di torsione la capottina, capito? Quindi rimaneva, gli avevo messo anche sotto una rondella in acciaio di modo che non rovinasse la capota, capito? Tra la capota e la barra. E l'ho attaccata così, capito? L'ho attaccata così e teneva bene tutto quanto. Poi un bel giorno, sono andato in Viale Umberto e ho preso un ramo di albero e mi ha stracciato tutto, mi ha fatto un buco grande, perché attorno dove avevo messo l'antenna sicuramente aveva preso un po' di ruggine ed era diventata più molle la cappotta lì. E niente, mi ha praticamente... però non mi sono perso d'animo. Sono andato in un negozio di idraulica, ho comprato uno di quei tappi che si mettono quando tu li rubinetti, ce l'hai presenti. Ho preso, l'ho verniciato, l'ho piazzato, ho messo silicone, non è entrata più di acqua. E poi l'antenna l'ho messa davanti, dove c'è lo specchietto. Ho capito, insomma, ti sei appentato, ma magari la macchina era anche più vecchia, no? Non credo sia quella che hai adesso. No, era la Station Wagon, ma non è che era vecchia, cioè, vabbè, aveva 12 anni, ma era tenuta benissimo, cioè aveva 350.000 km quando l'ho data. Che ho venduta a uno, venduta, diciamo, gliel'ho quasi regalata. L'ho venduta a questo amico e poi lui è andato a pagare l'assicurazione, che ci volevano 1200 euro di assicurazione, siccome era la prima assicurazione che faceva, se l'ha rivenduta e ci ha anche guadagnato di più. Lo immagino. Sì. No, ma immagino che poi mi prenderò la tua, tanto so ormai la marca, il modello, c'ho anche l'ordine sulla cronologia degli acquisti, per cui non ho problema se la voglio ordinare, me la ordino e già mi dovrebbe arrivare, capito? Loro la spediscono con Bartolini e a questo punto gli chiederei di farmela arrivare al fermo point, no, perché usano loro questi, ti arriva prima, perché se no gli arriva loro al deposito e te la consegnano quando sono a comodo loro, capito? Perché Bartolini è così, perde un sacco di tempo. Invece ho notato che se la fai arrivare al fermo point, a dei negozi che loro insomma li utilizzano per le consegne, loro prendono, caricano e portano già gli articoli del fermo point al negozio, a te arriva un messaggio e ti dicono puoi ritirare il tuo ordine al negozio da te selezionato, quindi vai lì e fai in un attimo e ritiri tutto senza stare schiavo a casa che arriva il corriere e tu non ci sei, ti lascia il foglietto, lo devi richiamare, passa dopo 2 giorni, capito? Quindi se la dovessi ordinare farò così. Infatti, visto la mia, pensavamo quasi che non arrivasse più. Vabbè caro, ora io ti saluto, vado a farmi la doccia perché sennò dopo c'è troppo freddo a scendere con i capelli bagnati, grazie a portare il cane, non mi asciugano, dai, io non me li asciugo mai con l'asciugacapelli, non mi piacciono i capelli gonfi. Eia, va bene Gianni, non c'è problema, ci sentiamo più tardi nel caso oppure alle prossime. Ci sentiamo, buona serata, buon tutto Gianni. Altrettanto Carlo, dai, ci sentiamo, saluto anche gli ascoltoni, aspetta ce ne saranno tanti. Anna Benemere, io rimango ancora un po' in ascolto e poi anch'io dovrò uscire perché devo andare a recuperare la moglie. Paga Carlo, dai, vabbè. Andale, ci sentiamo qua, ciao. Ciao Gianni, ciao.